Era una notte buia in Bolognina, ma sentivo quel suono e mi piaceva. La stagione sonora del Binario 69, all'insegna della partecipazione e dell'accessibilità. Binario 69, via dei Carracci 69 7D a Bologna. Ingresso riservato ai tesserati AICS. Info sui nostri social. Europa Box torna in Italia per la prima volta all'Estragon di Bologna. L'8 e 9 marzo, il festival che riunisce il meglio della musica europea. POM, Cristina Donà, Ada Oda, Rumba de Bodas, La Pegatina, Oif e Nessa Francis, Aloala e Venga Venga sono i protagonisti della due giorni di musica bolognese. La musica sarà accompagnata dalla mostra espositiva del fotografo francese Richard Belliat. Ukiyo Sushi & Club. Venerdì 8 marzo, il primo format ispirato al Giappone in Italia. Buffet sushi dalle 21.30, club music dalle 24. Entri lista al 331-781-8938 e su ticketsms.it. Ukiyo Sushi & Club. Venerdì 8 marzo al Click, Bologna, via Enrico Mattei 46L. Manda un SMS al 45586 e ci aiuterai a realizzare un grande sogno, la terrazza dei bambini dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Uno spazio dove vivere momenti di spensieratezza, gioco e studio in compagnia di familiari e amici. Aiutaci a realizzare questo sogno, la terrazza dei bambini. Dona anche tu, manda un SMS al 45586. Non dimenticare, guarda sempre in alto. Caricamento di Panta 80 in corso. La procedura impiegherà solo pochi istanti. Velocità smodata! Via! Allora, più che velocità smodata, direi 30 smodati, comunque, per mantenere un tono. Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Panta 80. Io sono Panta, so che non vi ricordate di me perché sono meno presente che un parlamentare pagato non a presenza ma così, coi soldi nostri. Di là del vetro c'è Andrea, questa è Radio Città Fujiko, 103.1 in FM, www.radiocittafujiko.it. Noi siamo più ignoranti che mai. Assolutamente sì, come sempre, più di sempre direi. Esatto, io ho molti saluti da fare. Addirittura. Eh sì, perché dunque intanto questa sera, oggi è il 4 marzo, quindi è il compleanno di Lucio Dalla. Ciao Lucio. Storicamente avevo ricevuto un generoso invito a partecipare ad una serata dedicata a Lucio, ma per la terza volta dare pacco ad Andrea di fila mi sembrava un po' eccessivo, quindi, quindi saluto Lucia che dovrebbe essere all'ascolto da direttamente dalla profonda Romagna, e ringrazio per avermi offerto il suo biglietto. Questa è la dimostrazione che effettivamente devo venire in diretta questa sera. Vuoi tanto bene alla trasmissione. Esattamente, no, più che altro è così, ogni tanto devo mantenere un caro armatino perché altrimenti qui il takeover è totale. Sì, è vero, ma tu come ben sai io a risico sono una pippa colossale, quindi. Assolutamente, anche come bonsai volendo. Meraviglia. Keanu Reeves che suona il basso. Rigorosamente, okay. Rigorosamente. Molto bene, detto questo, vabbè, devo salutare il gruppo d'ascolto di Borgo Mostri che questa sera dovrebbe essere all'ascolto e poi va bene un po' di ascoltatori e ascoltatrici che andremo a centellinare nel corso della serata, così non daremo faremo saluti ad hoc. Assolutamente, ad hoc, ma anche a Martin, perché insomma, se no poi si offende. Ma siamo in forma smagliante. Io sono di una stanchezza aberrante, e questo ci rende, e questo ci rende ancora più cretini, più molto pericolosi, bene. Direi. Assolutamente sì, assolutamente sì. E peraltro già l'esordio della puntata di questa sera la dice tu. Sì, cominciamo con quella. Allora, voi dovete sapere che Panta 80 come trasmissione ha diversi nomi tutelari, li abbiamo ricordati più volte, da Bruce Springsteen a nonno Keith Richard, ma non solo. E così ce n'è uno che è emerso con la prepotenza del suo ego da alcuni anni, e non c'è niente da fare. Io quando questa cosa è diventata, è esplosa di una viralità priva di senso ieri. Ieri. In realtà sabato noi siamo arrivati con più calma, ma perché c'è un evento, era legata ad un evento questa cosa. Io parentesi l'ho vista sabato notte, esatto, e ho svegliato la mia compagna perché mi sono messo a ridere. Lo so, anch'io. Mi sono venuti in mente anche i Children of Bodom, ma quella è un'altra storia. Così, cioè io praticamente l'ho spammata più di quanto non abbia fatto con il pezzo di Bardomagno, Magister Barbero, quindi che ho ascoltato tanto, in botta per sei mesi praticamente. Quindi, no, cominciamo con un nome tutelare, perché peraltro, vabbè, dopo ci sono delle ragioni per cui io gli voglio particolarmente bene. Quindi, sui microfoni, fuori dalle casse di Panta 80, i Tenacious D con Jack Black che canta. Non sono i Tenacious D, sono i Tenacious B. B. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, but in the crowd and lonely night, well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by. Leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'd be dancing on with myself. Oh, another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself. I'm dancing with myself. È 5 minuti che continua a fare oh oh. D'altronde questa canzone lo fa con una certa frequenza. Jack Black che canta insieme a i Tenacious D, che diventano Tenacious B, ok, cantando Hit Me Baby One More Time di Britney Spears, direttamente dalla sigla di Kung Fu Panda 4. Che bello. Che peraltro voglio dire, cioè, trovo veramente il gioco di parole dal titolo, pensando al film Forza colpiscimi un'altra volta, è veramente meraviglioso, pensando a Kung Fu Panda, che ricordiamo Po, il panda, nella versione originale, è doppiata proprio da quella da Jack Black, da quell'idolo totale di Jack Black, per cui è vero. Invece comunque, in versione italiana da Fabio Volo. Vabbè, capita. Non, però non fa. No, è bravo. Guarda, è bravo. Bisogna... È diventato iconico. Se l'ha fatto per tre esatto. volte consecutive. No, va bene. Dai, scale sono. Le mie acerrime nemiche. Quindi, no, assolutamente. Guarda, non, sai che io non sono un grande fan di Fabio Volo, nonostante possa ammettere di aver letto anche due suoi libri. Erano gli anni in cui avevo molto tempo libero. E leggevo molti libri. Molti. Attenzione. Veramente molti. E niente, così dice. E comunque nel suo ruolo di doppiatore di Po, devo ammettere che è assolutamente piacevole. Ma Kung Fu Panda, sono sì, assolutamente sì. affezionato a quel cartone animato, perché Po sono io, è evidente. Non, no, anzi, mi piacerebbe essere così agile, ok? Non, No, però è una di quelle serie. Il terzo l'ho visto. Il terzo, sì, è quello del pavone. Il cattivo è quello il pavone. Del pavo. Allora, non è male. No, guarda, è carina tutta quella serie. Eh sì. Il terzo. Sì. Avrei tolto un quarto d'ora, 20 minuti in totale. Vabbè, ma, tra una cosa e l'altra. Hai visto, hai visto tutti e quattro i film di Matrix? No, perché ne sono tre, scusa. Ecco, appunto. No, quindi. Perché hai detto quarto? No, ma guarda che io salvo il quarto e disintegro il secondo. Andiamo avanti. A proposito di disintegrare, a proposito di film, esce. No, vabbè, veramente. Cioè, dobbiamo aprire un'altra diatriba. Ti devo insegnare qualcosa anche sul cinema. Il quarto è veramente una delle cose aberranti. Avevano un paio di idee, anche molto forti, buttate lì come io butto la mattina il pigiama nella lavatrice. Il secondo poteva durare 10 minuti ed essere un appendice del terzo. Sì. Ecco, quindi sì, non... Però almeno il quarto gioca sull'effetto nostalgia. Sì, ma lo gioca malissimo. Cioè, preferisco veramente episodio 7 a questo punto. Vabbè, allora io vado a casa. Adesso sì, aspetta dai, un attimo, perché stiamo veramente scomodando le bestie sacre e sto per sciogliere i mastini della guerra, te lo dico. Episodio 7, non ho detto episodio 8, che quell'altro è un altro episodio. Accelerare le reazioni dei cloni d'assalto e posso andare avanti. Attenzione, non... Qui anche qui citavo altre frasi iconiche di un altro star, non Wars, ma Trek. Quindi, giustamente. Giustamente. Peraltro sì. Protagonista della battuta più bella, del meme più bello, veramente nerd degli ultimi anni. Ovvero? Una foto di una spalla nuda, completamente pulita, non con scritto ti piace il mio nuovo tatuaggio del falco da battaglia Klingon, ma questo è veramente per puri nerd fino al midollo, cioè una di quelle per cui riderebbe Sheldon Cooper, ok? Non, e quindi, e infatti io ho riso. E che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Andiamo avanti. Volevamo parlare di cinema, non così. Sì, non, a questo punto, a questo... visto che hai tirato giù non una mina, ma proprio una bomba termoidrogena. Dopo vi parlo anche del nuovo videogioco che sta schiantando tutti i record in questo periodo. Attenzione, nel frattempo, se c'è qualcuno che ha voglia, insomma, di scardinare le mie certezze filmografiche, lo può fare tra l'altro al 333-1809-494. E io continuo a ripetere: Matrix 4 non esiste. Andiamo avanti. Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte? Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta? Sì. I vostri familiari, avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti. Gnacchiappa Fantasmi, 24 ore su 24, per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del soprannaturale. Siamo pronti a credere in voi. Ghostbusters! We Are Gonna Call Ghostbusters, Ray Parker Jr. Che pezzone e che introduzione, bravo Andre. Tanta roba. Questo per dirvi che andrà nei cinema a breve. Adesso non ho guardato le date. Comunque, Ghostbusters 4, minaccia 4. Glaciale. Allora, 60 minuti. Vabbè, ragazzi, qui è un momento di grande paura. Io devo ammettere che. Perché dunque, premetto, il primo Ghostbusters è un film icona, non c'è niente da fare. Sì. Il secondo Ghostbusters è un film bruttino che però, secondo me, vive sull'effetto di nostalgia e comunque su un grande cattivo, perché Viggo il Carpatico è assolutamente un grande cattivo e l'ignoranza di far muovere con lo slime la Statua della Libertà, secondo me, è una di quelle trashate che può venire in mente solo all'Hollywood degli anni migliori. Bello, poi non c'è il film tutto al femminile, non vogliatemene, non è una questione di assolutamente, no. È che è proprio è brutto perché è un film privo di idee, è un film fatto solamente sull'onda del girl power, privo di idee, per cui secondo me anzi fa l'effetto contrario, non... sì, e Ghostbusters Legacy devo dire che a me è piaciuto, è un film gradevole. Non originale, ma nel senso che non ti aspetti nulla di davvero originale da un film come Ghostbusters. Sì, infatti. Con quel giusto livello di fanservice e colpo di nostalgia finale, senza essere però sbracato. È un film divertente. L'ho visto, diciamo, ho fatto una visione transgenerazionale, perché l'ho visto con le mie nipoti e con i miei amici, per cui in fascia di età 9-49, ok? E devo dire che più o meno è piaciuto a tutti. Ognuno trovandoci cose diverse, piacevole, visivamente molto, molto bello, scena finale di super commovenza, con tanto di lacrimone finale, e poi scena post credit che mi ha fatto dire no, faranno un altro film. E infatti sono partito un po' prevenuto, devo ammetterlo, però ho guardato praticamente tutto quello che è uscito e devo dire che ha titillato le mie papille gustative. Ok, la curiosità c'è, poi il rischio della sbracatona, secondo me, e per non dire qualcos'altro che finisce in atona. Una atona. Esatto, con annuncia orta. C'è, perché questo è evidente. Però. Qualche speranza c'è. Diciamo che comunque gli attori a me non dispiacciono. Adesso al di là dei giudizi personali su Phil Rudd e compagnia bella, del resto parto da un presupposto: non può essere più brutto di Quantumania, che in effetti è bruttino. Quantumania l'ho saltato, io l'ho saltato. Continua. Non, per cui peggio di The Marvels? Non l'hai visto? Non lo vedere. Diciamo che appartiene a tutta quella serie di film dell'universo Marvel che potevano essersi fermati 2 stagioni fa. Quindi insomma non... Capisco, rifiuto, ringrazio, ma vado avanti. Esatto, come direbbe il nostro un nostro vecchio amico con tante virgolette, non ne avvertivo l'esigenza. Quindi, però è così, e quindi c'è, e cosa dobbiamo fare? Quindi ai posteri e ai poster l'ardua sentenza, andrò a vederlo comunque senza ombra di dubbio, ma del resto io sono in una fase molto fanciullesca con il cinema. Ok. Cioè io ho così voglia di andare al cinema che praticamente qualunque cosa veda trova qualcosa per salvarlo. È come quando poeticamente dicevo: in ogni donna c'è un dettaglio di cui ti puoi innamorare. Ecco, è un po'. Sei un po' me 4 anni fa, quando in un non so bene che periodo storico mio personale sono riuscito a trovare qualcosa di buono in Gigaton dei Pearl Jam. Ma questa è un'altra storia. Non verranno in Italia. Quei simpatici buffaldini. Posso dire una cosa? Non ne sentivo l'esigenza, comunque. È una cosa grave per me. In effetti un po' sì. Discuteremo poi fuori onda del singolo che tu so non hai apprezzato. Allora, ci sono delle cose buone. Sì. Ci sono delle cose veramente... Ma dai, su, sai. Su, dai, su. Comunque, io direi 21:25. Direi pezzo, poi direttamente la pubblicità e poi ci risentiamo. E via andare, molto bene, perfetto. Visto e considerato che abbiamo parlato un pochettino, insomma, di ritorni e grandi speranze, 3 minuti e 37 di dolci sogni.

Scopri la magia della stagione teatrale 2023-2024, Tre Teatri per Te, del Comune di San Giovanni in Persiceto. Grandi artisti, grandi spettacoli e grandi storie. Scegli tra il biglietto singolo o le varie formule di abbonamento. Informati allo 051 82 50 22 o manda una mail a biglietteriateatro@comunepersiceto.it. Tre Teatri per Te, che la magia abbia inizio. Sabato 9 marzo al Teatro Comunale, Enrica Tesio e Andrea Mirò in Il settimo giorno lui si risposò, io no. Bollicine in Villa, un evento dedicato alle più grandi bollicine d'Italia, Francia e il resto d'Europa. Oltre 3.000 bottiglie in degustazione, champagne, cremon, cava, spumanti italiani, ungheresi e austriaci, masterclass, prelibatezze gastronomiche e wine shop. Una due giorni di emozioni, contenuti, scambio di opinioni e nuove idee. Sabato 23 e domenica 24 marzo, dalle 10 alle 20, Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, Venezia. Info su bollicineinvilla.it. Inizia ora la seconda parte di Panta 80. Io mi aspetto sempre di sentire partire lo waga waga waga waga waga, waga, waga, waga di Pac-Man, però occhio che un giorno lo farai. Un giorno succederà. Un giorno lo farai, mi coglierà. Ci saranno 10 minuti di tappeto solo waka waka waka non... waka. Però così sembri Shakira che canta la sigla dei mondiali del 2014. Perché non era? Quindi tu non sei Shakira, credimi, credimi. Sei molesto come una vuvuzela a volte, ma non sei Shakira. Quindi e comunque ricordiamoci che quell'anno lì fu battezzato anche come iconicità della molestia un concerto per violino e vuvuzela. comunque non, comunque sarei colpito alle spalle e tramortito da questa tua decisione come mi ha tramortito la notizia uscita un'ora e mezza fa, ovvero su Bad Taste. Si parla sempre di cinema anni 80 e ovviamente si parla di remake perché tanto ormai cinematograficamente non sappiamo inventare più nulla. Beh, che... solo sequel e remake come nei videogiochi, ragazzo. Esatto, esatto, esatto, con un'unica costante, con Zangief di Pisto. Quindi lo so, ma lo sai che lo devo dire ogni puntata. Dicevamo. Fino a quando non dimostri che non è vero. Allora, attenzione, sapete che c'è in corso un revamp del franchise per cui tutti ci siamo rotti le caviglie da adolescenti, noi di quella generazione lì. Cioè Karate Kid. Karate Kid? Esatto, cioè il colpo della gru. Sì, sì, sì. Un colpo che non avrebbe preso neanche mia nonna paraplegica probabilmente, ma eppure, no. Eppure, però. Allora, vabbè, c'è un revamp, peraltro con un cast eccezionale, perché ci sarà Ralph Macchio. Ah! Cioè, ok. E ci sarà Jackie Chan. Allora, vedi, allora, sono di quelle... tolgo anche la base con perché con parole tue sì, sono quelle notizie per cui praticamente io subisco un trauma e rimuovo immediatamente perché io questa cosa qui la sapevo. Ti dirò di più, ho visto anche il trailer. Molto bene. Molto male. Molto bene. Molto bene. Molto male. Ma attenzione perché io sto per alzare l'asticella ancora più in alto. Chi c'è? Perché nel cast ci sarà anche Joshua Jackson al secolo. Uh-huh. Ok, che tutti ricordiamo per essere Pacey Witter, ok? Di quale serie televisiva? Molto bene, proprio lui, perché lui ha fatto però, Fringe, che esatto, è una serie fighissima, esatto, e lui è bravissimo, ma lui è sempre il maledetto Pacey Witter. No, io ero Team Pacey. Quindi tu eri Team Pacey. Sì, Dawson doveva andare soltanto a farsi dei bagni freddi. Freddi, esattamente, esatto. Esattamente. Ma eri innamorato della biondo o della mora, fammi capire? Della mora, che però sempre 12 di picche, manco 2 di picche. Lo so. Attenzione perché il tuo biondismo non ti aveva travolto per la bionda, attenzione. Comunque sì, ci sarà anche lui, ci sarà anche Joshua Jackson, non è ok, non è, ci però, sarà un po' da però da però attenzione, sì? Attenzione perché Battaglione. Questo è sì, esatto, perché se non mi sbaglio il regista, potrei sbagliarmi, mm-hmm, è quello di sì, esatto. Esatto. Chi è? È Jonathan Entwistle, che non ti dice niente, ma no? Se ti dico The Hand of the Fucking World, che è una serie geniale. Ok, non l'ho mai vista, ma ne ho sempre sentito parlare. Assolutamente bene, quindi geniale, quindi io sono molto curioso. Poi sì, le facce improbabili di questo di Jackie Chan e di Ralph Macchio 40 anni dopo, devo dire che sono un po'... Vabbè, Ralph Macchio è lui 40 anni fa, 30 anni fa, soltanto con un pochettino più imbolzito. Sì, anche un po' di... Jackie Chan è Jackie Chan con gli occhiali. Vabbè, Jackie Chan... Jackie Chan è stato clonato più volte, quindi sì, non... Sì. Ricordiamo che Jackie Chan era una delle controfigure di Bruce Lee, esatto. Ed è stato una delle prime controfigure a doversi fare proprio una plastica facciale in vari punti per tentare di somigliare. Ed è grazie a quello che praticamente, come lo vedevi negli anni 90, lo vediamo più o meno oggi. Vabbè, per quello che mi riguarda, cosa che non può dire Steven Seagal, ma quelle sono altre cose. Esattamente, quale dei due, Steven Seagal o il dei terzo. Tre? Ecco, appunto, perché adesso quantomeno sono almeno tre, ma del resto sì. Non, l'imbolsimento è una caratteristica di quella generazione e io ne testimonio egregiamente gli effetti. Steven Seagal, vabbè, ma poi magari ne parliamo dopo. Guarda, hai sparato Karate Kid. Sì. Non ci eravamo messi d'accordo, ma Panta 80, proprio il meraviglioso proprio di questo. Tutto torna, la connessione tutto intergalattica. Torna, poi chiediamo anche a Red Ronnie che magari ci può dire qualcosa di più. Non dire queste parolacce in trasmissione, dai, per favore. Ho sentito il mucchio selvaggio, è una cosa allucinante. Comunque, io avevo pronto una roba direttamente da Karate Kid. Clamoroso. A man, and a man's got to learn to take it. Try to believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. History repeats itself, try and you succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dream. You're the best around, nothing's gonna ever keep you down. You're the best around, and nothing's gonna ever keep you down. You're the best. Ragazzi, che belle le interconnessioni galattiche di Panta 80, veramente mi rendono assolutamente felice. Stavo raccontando fuori onda, ok, alla, al nostro Andrea, che mentre lui mi raccontava del nerd show, di un paio di settimane fa, dove quest'anno è stata lui la, è stato lui il testimonial di Panta 80 a frequentare i locali, tra l'altro con il mio accredito stampa, quindi non c'è bisogno di dirlo, tu dici. Comunque, no, in realtà stavo dicendo che nel Mare Magnum di concerti che ci saranno quest'anno, come sapete, io ho già fatto il mio rantolo del il vecchio rancoroso contro i biglietti degli ACDC a prezzi improbabili, e sulle fasce, sulla divisione in fasce dell'area di l'arena del campovolo, chiamiamola RFC, così. Ma in realtà, andando a spulciare, la verità è che cercando dei biglietti per Taylor Swift per portarci le mie nipoti, perché io sono uno zio amorevole. Come scusa può reggere? Non so se reggo io un concerto di Taylor Swift, questo è il problema. Comunque, in realtà ho scoperto esserci un sacco di cose interessanti che avevo malamente trascurato. Ovvero? Quindi molto probabilmente tenterò una cosa veramente da super giovani, quindi ne uscirò probabilmente morto e cadavere, e quindi il 22 luglio o il 23, adesso non mi ricordo esattamente il giorno, a Lucca, biglietto Prato, Duran, ci fermiamo a dormire a Lucca, e il giorno dopo biglietto Prato per i Toto. Quindi doppietta. Cioè, mi faccio una pera di anni 80, di quelli veramente veramente incommensurabili. Non so, e poi ho smesso di guardare le cose, anche perché già mia suocera mi tormenta, perché sono sempre via ai concerti. Sono sempre via ai concerti e abbandono mia moglie, povera. Quindi, e non è vero, mia moglie non vede l'ora che io ogni tanto mi cavi dai piedi, così la lascio una sera dove lei fa quello che vuole, io non sto in mezzo alle balle. Ma e quindi niente, è così. Ma c'è un altro concerto fondamentale quest'anno, a un festival che noi trascuriamo perché siamo snob, che è il Pordenone Blues Festival, che è un gran bel, che è un festival spettacolare. L'anno scorso ci sono riuscito a vedere finalmente i Cult, in un'atmosfera spettacolare, praticamente da sagra di paese più palco strafigo, con un gran gruppo spalla. Cercatevi The Damn Truth, che sono veramente notevoli e hanno un'estetica che io non posso che apprezzare, perché quest'anno al momento l'unico headliner confermato è niente po' di meno che Mr. Alice Cooper. Attenzione. E io potrei riattraversare di nuovo l'Italia per raggiungere Pordenone e andarmi a guardare il buon vecchio zio Alice. Attenzione, questa è una gran cosa. È notevole, molto, te lo posso notevole garantire. E guarda, a proposito del Pordenone Blues Festival, a proposito dei tuoi trascorsi, sempre qui non ci siamo messi d'accordo. Vabbè, e ho fatto un micro cambio qui alla scaletta, e ci sono i The Cult con, tra l'altro, Reine, che me la autodedico. Vabbè, visto e considerato che ieri mi sono preso la pioggia tutta dalla mattina alla sera, tutta l'acqua del mondo, quindi che... in due regioni, che pezzone, che pezzato. Ah, mamma mia. Sing it. Che pezzone. Io ti posso dire che a Pordenone l'anno scorso, dove ero in compagnia di tre meravigliosi compagni di viaggio, quindi saluto Beppe Malpi e Andy, ok, alla partenza di Rain, ok, ricominciò a piovere. Ok, ci siamo sentiti Rain sotto la pioggia, veramente una... La perfezione. Una corrispondenza di amorosi gesti, è veramente una... Bello, una corrispondenza di amorosi gesti. Veramente, bello, capisco, non, lo so. Ma segno, scrivo, tatuo. Vabbè, questo, cioè, adesso voglio dire, non, è citazione classica, Andrea, cioè possiamo fare. Hai fatto gli studi alti, eri al terzo piano, ricordo, dai. Non me lo ricordo. Vabbè, è così, e cosa dobbiamo fare? Noi eravamo nel meno uno, veramente. Forse erano amorosi versi, però... Eravamo al meno uno al liceo classico con io e i miei compagni, comunque. E in cantina? Guarda, sembra una battuta, ma è vero. Noi avevamo piano terra, meno uno. Va bene, era comunque corrispondenza di amorosi sensi, eh. Adesso così. Ho avuto... Non ho ricollegato subito. Appartengo a quella categoria a cui piace Ugo Foscolo. Ci tengo. No, quella però è Ambrangioini. Quella è Ambrangioini. Se prometto, vabbè, poi mantengo. Attenzione, esatto, perché posso andare avanti. Perché questa, che bello, purtroppo... fare questa collegamento tra due. È così. Allora, intanto devo salutare. Vedi, l'avevo promesso. Devo salutare Lalla e Lorelai. Ok. Che per la quale sono lo zio calcolatrice. È bellissimo, okay, perché ogni tanto mi arrivano queste foto del libro degli esercizi di matematica, uh-huh, ok, e mi chiedono aiuto, e io fin qui posso squattare, perché sai, siamo tipo in seconda media e ancora ma posso giocare, però la mia amica che mi chiede aiuto, siccome mi conosce bene, mi manda anche la pagina della spiegazione della regola da applicare, perché così evito brutte figure. E tutto ciò è bellissimo. Però intanto così io sto ripassando tutta la matematica che non facevo da un numero di... Siete un'allegra combriccola canaglia, assolutamente sì. E dopo ti favorirò la foto, perché l'altro giorno mi ha chiesto una cosa, mm-hmm, e quindi ho risolto l'esercizio mentre ero fermo a un lungo semaforo e quindi c'è la risoluzione di una riduzione di una radice quadrata su una busta su un cartone di Amazon. Quello avevo in mano, che okay, dovevo fare, e io faccio ancora parte di quella brutta gente che deve usare carta e penna. Ah, vabbè, quindi, lo so. In colonna, rigorosamente, perché sennò tipo le dimensioni. No, in colonna, perché tanto ero fermo nel traffico. Ai 30, giusto. Quindi va bene. Comunque, fuori sento già rumoreggiare i nostri amici di Balla e Difendi, che come sempre in questo lunedì sera tornano a elevare il livello di Radio Città Fujiko, che noi abbassiamo in quella tiepida finestra fra Coxo Spaziale, appunto, e Balla e Difendi. Ma d'altronde, fortunatamente, c'è chi lo stile ce l'ha e loro ce l'hanno. Assolutamente. Noi siamo come vedi, Andrea, come è presente il prima e dopo, prima la cura e dopo la cura, e noi siamo il prima la cura, prima della cura, vedi come siamo rovinati, così facciamo risaltare chi segue dopo di noi, che e questo bello, è importante, vedi? Panto 80 per il sociale, abbiamo un ruolo 80 per la radio, esatto. Bene, dopo questo salutiamo tra l'altro anche Mauri Dopamina, che ci segue sempre, grande sempre. Peraltro, insomma, voglio dire, se poi un lunedì sera si volesse presentare alla porta, vieni, d'altronde voglio dire, sei di casa pure tu, quindi esatto, sarebbe sempre un piacere, quindi unisciti a noi, apri la porta, entra e delira insieme a noi, esatto. Bene, ragazzi, noi torniamo lunedì prossimo, sempre che non ci abbiano buttato fuori o non abbiano cambiato il cilindro della serratura. Voi passate una buona settimana. La nostra sarà nel segno dell'ultimo pezzo che Andrea ha scelto, che io non so. Nemmeno io me lo ricordo, però credo che sia di Terminator, perché James Cameron sta scrivendo la sceneggiatura per il settimo. Molto bene, quindi sarà nel segno di Skynet, la rivolta delle macchine. Va tutto bene. La prossima settimana vi parlerò anche di Helldivers 2. Un gioco assolutamente ignorante che mi fa pensare che forse dovremmo fermare le intelligenze artificiali prima che sia troppo tardi. Ciao! Se vuoi vivere. E va bene, non ho proprio altre scelte. Perché lo sappiamo tutti che il Terminator finale è Cristina D'Avena. Oh, control. 11 marzo all'interno dell'Italy Beer Week al Pub Birreria La Locanda di Via Treves a Bologna, zona stadio, arriva la degustazione targata Fabbrica Birra Ronzani, lo storico marchio bolognese. Dalle 20:30 la degustazione di 6 tipologie di birra Ronzani abbinate a piatti sfiziosi. Prenota subito al 389 19 72 641, anche via WhatsApp o con un messaggio Facebook al Pub Birreria La Locanda. Stagione teatrale 2024 di Crevalcore. Martedì 5 marzo alle 21, all'Auditorium 1 maggio di Crevalcore, l'interpretazione dei sogni con Stefano Massini. Da più di 10 anni impegnato nella sua ricerca sull'interpretazione dei sogni di Sigmund Freud, Massini mette in scena uno spettacolo in cui prende